Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Ida si doleva molto di aver trattenuto Frank quando avrebbe potuto liberarsene così facilmente. La colpa era sua e lei ne era vivamente preoccupata. Pur non avendo prove, sospettava che Helen provasse dell'interesse per il commesso. Qualcosa c'era tra loro due. Ida non chiedeva alla figlia che cosa, perché se Helen le avesse risposto che non c'era nulla, lei si sarebbe vergognata della domanda. Sebbene avesse cercato di farlo, sentiva di non potersi fidare completamente di Frank. Sì, era stato d'aiuto in negozio, ma qual era il prezzo che avrebbero dovuto pagare per quell'aiuto? Talvolta, quando lo sorprendeva in negozio solo, credeva di cogliere in lui qualcosa di infido. Sospirava spesso, borbottava tra sé, e se si accorgeva di essere osservato, faceva finta di nulla. I suoi gesti sottintendevano sempre qualcosa. Sembrava che avesse due anime. Con una era lì, con l'altra altrove. Anche quando leggeva, faceva qualcosa di più che leggere. Il suo silenzio era un discorso che Ida non capiva. Qualcosa lo preoccupava. E Ida sospettava che fosse Helen. Soltanto quando Helen capitava in negozio, nel retro, e lui era presente, Frank sembrava rilassarsi, diventare una persona normale. Ida era preoccupata, benché non riuscisse a scoprire in Helen nessun segno di corresponsione ai suoi sentimenti. Helen, in presenza del commesso, se ne stava zitta, distaccata, quasi fredda. Non gli dava nulla in cambio del suo sguardo turbato. Gli voltava le spalle e nient'altro. Eppure, anche per questo, Ida era preoccupata. Ne parlò a Morris, chiedendogli con cautela se avesse notato qualcosa tra Helen e Frank. «Non farla stupida», le rispose il negoziante. «Morris, ho paura. Tu hai paura di tutto, anche di quello che non esiste. Digli di andarsene subito. Ora il negozio va meglio». «Già, va meglio», borbottò lui. «Ma chissà come andrà la settimana prossima. Avevamo deciso che sarebbe rimasto fino all'estate. Morris ci combinerà qualche guaio». «Ma che guaio?» «Sta a vedere», Ida disse stringendosi le mani, «se non succederà una tragedia». Dapprima il suo monito lo infastidì, poi lo preoccupò. Il mattino dopo, il negoziante e il commesso sedevano davanti al tavolo a sbucciare patate calde. Avevano versato l'acqua dalla pentola e poggiato la pentola di fianco. Sedevano chini accanto al mucchio delle patate fumanti, raschiando col coltello le bucce sporche di sale. Frank non sembrava a suo agio. Non s'era fatto la barba e aveva le occhiaie. Morris si chiedeva se non avesse bevuto, ma non puzzava affatto d'alcol. Lavoravano in silenzio, ciascuno assorto nei propri pensieri. Dopo una mezz'ora, Frank, dimenandosi inquieto sulla seggiola, osservò: «Mi dica, Morris, se qualcuno le chiedesse in che cosa credono gli ebrei, che cosa risponderebbe?» Il negoziante smise di sbucciare, non trovando lì per lì risposta. «Quel che mi piacerebbe sapere, in ogni modo, è cos'è un ebreo». Vergognoso della propria scarsa istruzione, Morris non si sentiva mai a suo agio quando gli si rivolgevano domande del genere, eppure sentiva di dover rispondere. «Mio padre diceva che per essere un buon ebreo tutto quel che occorre è un cuore buono. Ma lei cosa dice?» «Quel che conta è la Torah, È la legge, cioè. Un ebreo deve credere nella legge. Vorrei farle una domanda, ripete Frank. Lei si considera un vero ebreo? Morris era esterrefatto. Cosa vuol dire se sono un vero ebreo? Non se la prenda, disse Frank, ma io posso dimostrarle che non lo è. Prima di tutto non frequenta la sinagoga, almeno io non l'ho mai vista andarci. Non porta neanche uno di quei piccoli cappelli neri come quel sarto che conoscevo a Chicago. Pregava 3 volte al giorno. Sento anche dire della signora Ida che tiene aperto il negozio nelle feste ebraiche. E la signora ha un bello sgolarsi, non serve a niente. Qualche volta, Morris arrossì, per mangiare si deve tenere aperto di festa. Ma nel giorno di Yom Kippur non tengo aperto. Quel che mi preoccupo di fare è di seguire la legge ebraica. Ma tutte quelle cose sono la legge, no? La legge non dice forse che un ebreo non deve mangiare carne di maiale? Eppure io l'ho vista mangiare prosciutto. Per me non è importante mangiare o non mangiare prosciutto. Per certi ebrei è importante, ma per me no. Nessuno potrà venirmi a raccontare che non sono un buon ebreo perché una volta ogni tanto, quando mi sento la bocca secca, assaggio un pezzettino di prosciutto. Me lo potranno dire e io ci crederò quando non osserverò la legge. E osservare la legge significa comportarsi bene, essere onesti, essere buoni, buoni con gli altri. La vita è abbastanza difficile. Perché dovremmo far del male a qualcuno? A tutti dovrebbe andare nel migliore dei modi, non solo a te o a me. Non siamo mica bestie. Ecco perché ci vuole la legge. Mi pare che anche altre religioni abbiano questi principi, disse Frank. Ma mi dica, Morris, perché diavolo gli ebrei soffrono tanto? Mi pare che ci provino gusto a soffrire. Cosa ne dice? Ci provi gusto tu a soffrire? Soffrono perché sono ebrei. Quel che voglio dire è che patiscono più di quel che dovrebbero. Chi vive soffre. C'è chi soffre di più, ma non perché ne ha voglia. Io credo però che se un ebreo non soffre per la legge, non soffrirà mai per niente. E lei, Morris, per che cosa soffre? Chiese Frank. Per te soffro, rispose Morris calmo. Frank depose il coltello sul tavolo. Aveva una sensazione di pena in bocca. Cosa vuol dire? Voglio dire che tu soffri per me. Il commesso non ribatté. Se un ebreo dimentica la legge, concluse Morris, non è un buon ebreo e non è una brava persona. Frank raccolse il coltello e riprese a pelare le patate. Il droghiere sbucciò il suo mucchio in silenzio. Il commesso non fece altre domande. Mentre le patate si stavano raffreddando, Morris, turbato da quel discorso, si chiese perché mai Frank avesse sollevato la questione. Per qualche ragione gli venne fatto di pensare a Helen. «Dimmi la verità», riprese. «Perché mi hai fatto quelle domande?» Frank si dimenò sulla seggiola e rispose piano. «Per essere sincero con lei, Morris, una volta io non me la facevo tanto con gli ebrei». Morris lo guardò fisso. «Ma questo parecchio tempo fa», disse Frank, «prima di sapere che gente sono. Non credo che li capissi molto». La sua fronte era imperlata di sudore. «Capita tante volte», disse Morris, ma la confessione non aveva dato alcun sollievo al commesso. Un pomeriggio, subito dopo colazione, dandosi un'occhiata allo specchio, Morris vide come erano disordinati i suoi capelli e fitti sul collo, e ne ebbe vergogna. Disse a Frank che andava dal barbiere di fronte. Il commesso, immerso nella pagina delle corse del Mirror, annuì. Morris appese il grembiule ed entrò in negozio per prendere un po' di spiccioli dalla cassa. Prese qualche moneta dal cassettino e controllò compiaciuto l'incasso della giornata. Uscì dal negozio, attraversò la strada e si diresse verso la bottega del barbiere. La poltrona era libera, sicché non dovette aspettare. Mentre Giannola, il barbiere che odorava d'olio d'oliva, si occupava dei suoi capelli chiacchierando, Morris, malgrado l'imbarazzo che provava per la lunghezza delle chiome che il barbiere doveva tagliare, si scoprì a pensare soprattutto al proprio negozio. Se fosse durato così, non il paradiso di carpe, ma almeno una cosa da poterci campare, non la miseria terribile di appena qualche mese prima, sarebbe stato contento. Ida aveva continuato a tormentarlo per fargli vendere, ma che senso aveva vendere prima che la situazione generale migliorasse ed egli potesse trovare un posto che gli ispirasse fiducia? Al Marcus, Braibart, tutti i camionisti con cui parlava si lamentavano ancora degli affari. La cosa migliore era non cercarsi noie e rimanere dov'era. D'estate, magari, quando Frank se ne fosse andato, avrebbe venduto e si sarebbe cercato un altro negozio. Riposando nella poltrona del barbiere e osservando attraverso la vetrina il suo negozio, Morris constatò soddisfatto che dal momento in cui si era messo a sedere erano entrati nel suo negozio almeno 3 clienti. Uno uscì con una grande borsa rigonfia che Morris immaginò contenesse almeno 6 bottiglie di birra. Erano uscite anche 2 donne cariche, una con una sporta colma. Calcolando, mettiamo almeno $2 ciascuna per le 2 donne, Morris pensava di aver incassato un buon $5 e di aver guadagnato il prezzo del taglio dei capelli. Appena il barbiere ebbe tolto l'asciugamano, Morris ritornò in bottega, accese un fiammifero sopra la cassa e guardò la cifra aspettandosi un buon incasso. Con gran meraviglia notò che solo poco più di $3 erano stati aggiunti al totale che aveva osservato prima di lasciare il negozio. Era sbalordito. Come potevano essere solo $3 se le borse dei clienti erano piene di merci del negozio? Poteva darsi che contenessero soltanto un paio di scatole di merci voluminose e di poco prezzo, per esempio Gran Turco soffiato. Non riusciva a crederci e si sentiva agitato fino a starne male. Nei giorni successivi tenne accuratamente d'occhio il commesso. Aveva deciso di concedergli il beneficio del dubbio, ma di non darsi requie finché non avesse saputo la verità. Talvolta se ne stava seduto davanti al tavolo nel retro facendo finta di leggere, ma attento a tutte le ordinazioni dei clienti. Annotava i prezzi e, mentre Frank impacchettava la merce, faceva con approssimazione un rapido calcolo del totale. Morris rifletté poi che magari il commesso aveva rubato, ma era più colpa sua che non di Frank. Era un uomo adulto, coi bisogni di un adulto, e tutto quello che lui gli pagava, compresa la magra percentuale, erano $6 o $7 alla settimana. Vero che aveva camera e cibo gratuiti e le sigarette, ma cos'erano $6 o $7 di questi tempi in cui un paio di scarpe decenti costava dagli 8 ai 10? La colpa era dunque sua, che pagava un salario da schiavo per dei servizi da lavoratore. Così, nonostante lavorasse con un margine esiguo di profitto, un pomeriggio in cui con Frank stava disponendo sugli scaffali alcune scatole di merci appena arrivate, Morris disse al commesso ritto sulla scala a Pioli: «Frank, credo che da adesso fino all'estate aumenterò il tuo salario a $15 netti, senza più commissioni. Vorrei darti di più, ma sai che affari facciamo qui. Frank, dall'alto della scala, guardò il droghiere. Ma perché, Morris? Il negozio non può permettersi di pagarmi più di quel che prendo adesso. Se mi dà $15, il suo guadagno se ne andrà. Lasciamo le cose come sono. Io son contento così. Un giovanotto ha bisogno di più e spende più soldi. Io ho tutto quel che mi occorre. Facciamo come ho detto. Non voglio, protestò il commesso seccato. Prendili, insistette il droghiere. Frank finì di disporre la merce, scese dalla scala e disse che andava a trovare Sam Pearl. Non guardò negli occhi il padrone passandogli davanti. Morris continuò a sistemare le scatole sugli scaffali. Piuttosto che confessare a Ida di aver dato un aumento a Frank, facendo così nascere un putiferio, decise di togliere dal registratore i soldi un po' per giorno, in modo da non farsi accorgere. Gli avrebbe dati al commesso sabato di nascosto, prima che Ida gli passasse il solito salario. Helen sentiva che a onta delle sue fierissime esitazioni si stava innamorando di Frank. Era come una danza che dava le vertigini e lei si ribellava. Quel mese faceva freddo, nevicava spesso e la vita non era facile per Helen. Doveva combattere le esitazioni, i timori di star commettendo un errore disastroso. Se Frank nascondeva qualcosa, pensava, era la sua pena trascorsa, la sua condizione d'orfano e la sofferenza che gliene era derivata. I suoi occhi erano più tranquilli e più saggi. Il suo naso storto stava bene sulla sua faccia e la faccia andava d'accordo col naso. Faceva il suo lavoro onestamente, era dolce e se aspettava qualcosa lo aspettava con garbo che suscitava il suo rispetto. Aveva la sensazione di essere stata lei a cambiarlo e ne era commossa. Non le importava granché adesso del suo primitivo desiderio di non legarsi a lui. Sentiva per lui della tenerezza, lo voleva vicino. Anche lei pensava, cambiando Frank, era cambiata. Avendo accettato il suo libro in regalo, i loro rapporti avevano subito un sottile mutamento. Occorrevano altre prove se ogni volta che leggeva il suo Shakespeare pensava a Frank Alpine e le pareva persino di udirlo parlare nei drammi? Qualunque cosa leggesse, lui si insinuava nei suoi pensieri. Era presente nelle parole d'ogni libro, personaggio di una trama inventata da uno che non era lo scrittore, come se tutti gli intrecci volgessero a un unico fine. Tanto per cominciare, era dappertutto. Senza bisogno di mettersi d'accordo, seguitavano a vedersi in biblioteca. Incontrarlo tra i libri aiutava Helen a sentir meno la sua perplessità. Quasi pensasse che non poteva far nessun male in mezzo ai libri e lì non poteva correre nessun rischio. Anche lui in biblioteca sembrava più sicuro di sé. Solo una volta, rincasando, divenne quasi distante, stranamente sospettoso e di tanto in tanto si guardava alle spalle come se qualcuno li pedinasse. Ma chi mai poteva seguirli? Non l'accompagnava mai fino al negozio. Come prima, di comune accordo, Helen lo precedeva e Frank faceva il giro dell'isolato entrando nell'atrio dalla parte opposta per non dover passare davanti alla vetrina della drogheria e magari essere visto giungere dalla stessa direzione di Helen. Interpretava quella cautela come un desiderio di Frank di non mettere a repentaglio la vittoria che sentiva di stare per ottenere. Significava che egli la rispettava più di quanto lei era certa di voler essere rispettata. Poi, una notte, Attraversando un prato del parco, si volsero l'uno di fronte all'altra. Helen cercò di risvegliare dentro di sé un sentimento di pericolo, ma il pericolo le apparve offuscato, distante, mentre Frank la teneva tra le braccia. Stretta al petto di lui, sensibile al suo contatto, sentì il freddo sfuggire dalla notte e un calore invaderla. Le sue labbra si schiusero. Nel suo bacio appassionato trovò tutto ciò che aveva per tanto tempo desiderato. Ma nell'attimo della gioia più dolce sentì ancora la presenza del dubbio, quasi un male la sfiorasse, e ne fu rattristata. Colpa sua, significava che non poteva ancora accettarlo completamente. C'erano ancora dei segnali che sbarravano la via. Bastava che ci pensasse e agivano in lei, le tendevano i nervi. Rincasando, non riusciva a scordare la prima impressione di felicità del loro bacio. Ma perché un bacio doveva tramutarsi in ansia? Poi vide che gli occhi di Frank erano tristi e pianse senza farsi vedere. Non sarebbe mai stata primavera? Negli ultimi tempi si era resa conto che se si preoccupava del fatto che Frank non era ebreo, era più per suo padre e sua madre che non per lei. Helen non era stata educata rigidamente all'ebraismo, però si sentiva solidale con gli ebrei più per quello che avevano patito che per quel che sapeva della loro storia e della loro religione. Amava gli ebrei come popolo, era fiera di considerarsi dei loro. Non le era mai passato per la testa di poter sposare un gentile. Ma ultimamente era giunta a pensare che in tempi così disgraziati, quando gli uomini avevano così scarse possibilità d'essere felici, trovare l'amore era un miracolo e realizzare l'amore, come meglio era possibile tra due persone, era quel che realmente contava. Era più importante irrigidirsi sull'identità di fede tra uomo e donna, se il problema era un problema di fede religiosa, o avere ideali comuni e il desiderio di tener vivo l'amore nelle loro esistenze e di conservare in tutti i modi il meglio di sé? Meno diversi erano due individui, meglio era. Aveva chiarito la cosa per sé, ma le rincresceva per tutti quelli a cui non l'aveva chiarita. La sua logica, però, se logica era, non avrebbe significato un bel nulla per i suoi genitori quando si fossero accorti di quel che stava accadendo. Se Frank si fosse iscritto all'università, forse alcuni dei dubbi che Ida nutriva sulle sue qualità personali sarebbero svaniti, ma l'università non era la sinagoga e una laurea non era una cerimonia di iniziazione religiosa. Sua madre e anche suo padre, con tutte le sue idee liberali, si sarebbero comunque ostinati a chiedere a Frank di essere ciò che non era. Helen non era sicura di spuntarla su di loro se la faccenda fosse venuta in luce. Temeva le discussioni, le loro implorazioni lacrimose, l'angoscia che avrebbe provato sottraendo loro un altro po' della scarsa pace di cui godevano in questo mondo e aggiungendo ancora qualcosa alla loro infelicità. Lo sapeva il Dio che di infelicità ne avevano avuto abbastanza. Eppure si viveva così a lungo e così poco durava la giovinezza che bisognava per forza fare delle scelte crudeli. Helen prevedeva la necessità di mantenersi fedele alla propria scelta, sopportando il dolore senza venir meno alle sue decisioni. Morris e Ida ne sarebbero stati colpiti dolorosamente, ma dopo un po' la loro pena sarebbe diminuita e forse sarebbe scomparsa. Con tutto ciò, non poteva impedirsi di sperare che i suoi figli avrebbero un giorno sposato degli ebrei. Se avesse sposato Frank, la sua prima preoccupazione sarebbe stata di aiutarlo a diventare qualcuno. Ned Pearl voleva diventare qualcuno, ma per lui questo significava far soldi per condurre lo stesso genere di vita di certi suoi ricchi amici della facoltà di legge. Frank invece lottava per un'ambizione più degna, per affermare la propria personalità. Per quanto formalmente Ned avesse un'ottima educazione, Frank aveva più esperienza della vita e dava l'impressione di essere interiormente più dotato. Helen voleva che lui realizzasse le sue possibilità ed escogitò un piano per mantenerlo all'università. Forse sarebbe anche riuscito a prendere una laurea una volta che avesse scoperto cosa voleva fare. Helen si rendeva conto che questo significava per lei abbandonare i propri vaghi progetti di frequentare i corsi regolari all'università, ma a dire il vero aveva ormai lasciato cadere da un pezzo quell'idea e pensava che alla fine si sarebbe rassegnata quando Frank avesse ottenuto ciò che a lei non era riservato. Forse, quando Frank avesse cominciato a lavorare come ingegnere o come chimico, anche lei sarebbe riuscita a frequentare l'università per un anno, tanto per togliersi la voglia. Il futuro offriva di più in tema di possibili realizzazioni, pensava Helen, se uno aveva il coraggio di rischiare. Il problema era se lei avesse o no questo coraggio. Rimandava qualsiasi decisione importante. Ciò che più le faceva paura era il grande compromesso. Aveva visto tante persone di sua conoscenza rassegnarsi e accettare molto meno di ciò che avevano sempre desiderato. Temeva d'essere costretta a scegliere oltre un certo limite, di accettare una vita meno bella, molto meno bella di quella che aveva desiderato, di accettare una volta per tutte un destino remoto dai suoi ideali. Sapeva di non doverlo fare, sia che significasse scegliere Frank oppure lasciarlo andare. Il suo costante timore alla base di tutti gli altri era che la vita non le riuscisse come l'aveva desiderata o che le riuscisse del tutto diversa. Era pronta a cambiare, a sostituire una cosa con un'altra, ma non voleva rinunciare alla parte sostanziale dei suoi sogni. Ebbene, avrebbe saputo prima dell'estate cosa doveva fare. Nel frattempo Frank andava in biblioteca due volte la settimana e lei ci si faceva trovare. Ma quando la bibliotecaria, vecchia zitella, sorrideva al vederli con aria d'intesa, Helen si sentiva confusa. Così si diedero appuntamento in altri posti. Si videro al ristorante, al cinema, in pizzeria, dove era impossibile parlare molto, abbracciare Frank o farsi abbracciare da lui. Per chiacchierare passeggiavano, per baciarsi si nascondevano. Frank le diceva che gli arrivavano i formulari delle università che aveva richiesto e che verso maggio avrebbe mandato un certificato coi voti del liceo all'università cui l'avessero assegnato. Mostrava di sapere che Helen faceva progetti per lui. Non diceva molto di più, perché aveva sempre paura di farsi perseguitare dalla vecchia Iella se avesse aperto un po' troppo la bocca. L'undicesima puntata del Commesso di Bernard Malamud, nella traduzione di Giancarlo Buzzi, letta da Paolo Graziosi per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini con Luigi Iavarone. Due avvertenze: la prima è quella consueta, le puntate sono riascoltabili su RaiPlayRadio.it. Domani

immaginati quando i loro genitori erano bambini a loro volta. Cosa sanno di Don Milani in particolare? La sua storia è raccontata per la seconda volta, ma in un'altra forma, da Eraldo Affinati. Buon pomeriggio, benvenuto. Salve a tutti voi. Eraldo Affinati ha scritto per Il battello a vapore Il sogno di un'altra scuola, Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi. Ma attenzione, non si tratta di una biografia. Certo, lo è anche una biografia scritta con altre parole rispetto all'Uomo del futuro, che è stato il libro che Affinati ha dedicato a Don Lorenzo Milani e agli altri possibili Don Lorenzo Milani. È un racconto davvero collettivo. Come è nata l'idea?